come una lepre che corre per sopravvivere, come quando leggo un libro e non penso a niente, come quando corro ma è una strada non ce l'ho, ma che importa se pensieri non ne ho. Che cosa fai, se ti trovi nei guai? Non fare niente, ma questo già lo sai. Io che farò, ti guarderò, ma non pensare che ti aiuterò. Che cosa fai, ma dove vai? Hai tanta paura, perché mai? E di coraggio di vivere una vita tutta per te, come quando fuori piove, come la neve al sole, come una tempesta che spazza tutto compreso te. Ti aiuterò. Che cosa fai, ma dove vai?